Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Trigliceridi a 257, mi ha detto: lei mangia male. E dico: è grazie al cazzo, dottore, come dicono Oxford. Sono in giro dalla mattina alla sera, mangio se e quando riesco un panino alle 3 del pomeriggio o un piatto di pasta alle 11 di sera. No, disastro! Movimento 5 Stelle propone di estendere al Senato i legali come uscito dalla Corte Costituzionale. Ora che tutte le opposizioni avanzano questa proposta, ci auguriamo che il Partito Democratico non sia l'unico partito a dire no. State facendo l'inciuccio con Verdini? No, è il contrario, è proprio sono i 5 Stelle che chiedono un sistema completamente proporzionale, basta guardare le loro proposte, la correzione dell'Italia come un sistema completamente proporzionale. Quindi voi voltate le spalle a Berlusconi e vi rivolgete ai 5 Stelle, che però vi dicono: state facendo l'inciucio con Verdini, quindi anche da quella parte, diciamo, non trovate. Noi voltiamo le spalle alla Prima Repubblica. Signori, spettacolo, sono tornate 2 o 3 pagine sui giornali sulla legge elettorale e io rido anche un po' per il nervoso, devo dire, rido un po' in maniera isterica ormai quando vedo di legge elettorale. Buffonate. Ecco, ti aspettavo, caro presidente. Oh, mi hanno scritto: cos'è l'acqua? Perché dico che Vincenzo De Luca farà la conduzione 4.0 di 24 Mattino. Un ascoltatore preoccupatissimo mi ha detto: ma cosa significa 4.0? Licenziato. Eccolo là. E come l'industria 4.0, nuove tecnologie, avanzata, noi 4.0, perché insomma la nuova dimensione della conduzione di 24 Mattino. Metteremo insieme tutte le frasi del presidente De Luca e poi condurrà lui. Te ne devi andare. Per l'appunto. Ne devi andare, vabbè. Oh, un po' aggressivo oggi Vincenzo De Luca, eh? Sarà che c'è Paolo Corleone in regia oggi? Abbiamo mandato l'alpino alla dunata degli alpini a Treviso. Ma si capisce che non è mestiere tuo. L'abbiamo mandato lì. Intanto abbiamo rottamato Peter Bescapè, che tornerà ovviamente con qualche goccio di vino in corpo. Licenziato. Anche lui si è preso il lunedì di ferie per smaltire la sbornia, e quindi abbiamo Paolo Corleone in regia insieme a Lorenzo Nespoli, come sempre in redazione, alle 6:34 minuti. E vi ricordo che in questo momento a Barcis, provincia di Pordenone, ci sono 10 gradi e piove. Un caro saluto da Giampiero. Grande tornata Chiara, che ci ascolta da Perth, Australia. In questo momento ci sono 20 gradi in diretta. Un abbraccio a Perth. Simona ci dice che a Palazzolo sull'Oglio ci sono 14 gradi, mentre per Giuseppe 11 gradi a Ginevra. Ci stanno ascoltando da Ginevra, Svizzera. Grande Giuseppe. Dai, a Treviso 17 gradi. Si sta parlando di alcol o... Oh, non ci credo. Dai, 17. Ecco, vedi qua, Anna, Treviso, 10 gradi, tutto a posto. Oh, non dateci notizie false sui gradi, perché guardate che mi arrabbio, è un servizio fondamentale per il cittadino. Non ci prendete per il culo, eh? Perché guardate che vengo lì. Credo ad Anna, 10 gradi, Treviso. Vabbè, Anita ci dice 35 gradi a Capri nel mio letto. Un abbraccio, Anita. Allora, voglio salutare il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto. A Treviso, tu non vai a Treviso alla Dunata degli Alpini? Sono dalle, no, dalle parti tue, eh? Un po' più in là, ma non ci vado. Non ci vai. Mannaggia, perché lì si beve. Vabbè, anche altre parti, sì, a volentieri. Sì, sì, non è che deve andare. Allora, caro Massimo, ti presento la lingua biforcuta del Parlamento, anche se lui si arrabbia così, il nostro deputato preferito, Maurizio Bianconi. Eccolo qua. Buongiorno a voi, buongiorno. Direzione Italia. Questo è il nuovo partito. Non glielo dico più, biforcuta vuol dire bugiarda. Io non sono bugiardo. Ha capito o no? Ma perché? Ma lei tec non l'ha letto mai, da giovane lo leggeva Tex. Tex, io leggevo Geppo. Va bene, comunque la minga biforcuta, gli indiani lo dicono dei bugiardi. Ma no, ma perché per me invece, come Geppo c'era il serpente, presente il serpente? Sì, me lo ricordo, sì. E c'aveva la lingua biforcuta, e per me è quello, un po' il serpentello che addenta. Ah, va bene, allora va in, bene. In quel senso, la lingua... Basta capirsi. Ora io che devo fare? Devo aprire il Parlamento e devo subito parlare del caso politico del giorno, dai, perché si sa che è un po' di tempo che ragazzi, se uno esce per prendere un caffè, non se ne esce da questa vicenda De Bortoli Boschi. E tra l'altro qui, caro Massimo, ho il migliore amico di Maria Elena Boschi, di Arezzo, come la Boschi che è di Laterina, in provincia di Arezzo, e poi ho il condirettore della Verità. Massimo, senti un po' Maurizio Bianconi che ne pensa di Maria Elena Boschi. A me ha colpito la frase di De Bortoli che con nonchalance ha detto: la storia di Etruria è una storia di massoneria. Così, di massoneria, ieri da Lilli Gruber. Caro Bianconi, che volte gli parli? Della massoneria della Banca Popolare o della Boschi? Non lo so. Allora, diciamo della Boschi. La Boschi venne in Parlamento e disse che suo babbo era la persona più onesta del mondo di cui lei si fidava ciecamente. E vabbè, questo... E questo è un cuore di figlia. Però, insomma, non è poi andata fesa. Non dico che sia un disonesto, ma comunque le ombre sui comportamenti di Boschi, che se la intende con Mureddu, sardo amicissimo di Carboni, al quale Boschi porta rosi per scegliere il candidato a direttore della Banca Etruria, molto molto lunga, oltre ai vari procedimenti intentati contro il babbo di Boschi, che è più che altro un trafficone molto di campagna, però è lì. Lei negò completamente poi di essersi mai occupata di banche, perché lei era onesta e capiva il conflitto di interessi, cosa che poi non si è verificata vera. Ci sono state delle riunioni e poi c'è sono state riunioni a casa sua, ha telefonato a questo dell'Unicredit, eccetera, mica per prestare, per occuparsi di una cosa della quale non si dovrebbe mai ha telefonato questo dell'Unicredit, poi non c'è stata conferma, ma neanche smentita. Io De Bortoli è l'ultima delle persone che mi è simpatica, perché ho sangue ghiaccio, io sono un po' sangue caldo, a me non è che questo qui con quei occhi a palla convinca tanto, è sempre stato un uomo tutto preciso con la cravatta, io non l'ho messa mai, capito? È esattamente il contrario della mia visione. Però è un uomo di una correttezza addirittura impressionante, non è mai stato smentito, cioè non è che si alzata a fare una cosa così, ma oggi che è bugiarda, sì, ecco, perché quindi biforcuta, che... lì si può dire è questione di serietà andare via e smettere con la politica e tornare a casa se prendiamo in referenza. No, vabbè, ma oggi è una bugiarda seriale. Eccola qui. Amica di un bugiardo seriale. Oggi. Non so dividarmi, ecco. Sì, oggi Massimo De Manzoni, voi titolate sulla Verità proprio 5 motivi per cui dovrebbe lasciare Maria Elena Boschi. Beh, dicene due, insomma, i più importanti secondo voi. Beh, uno è quello che è appena stato detto, cioè ha mentito al Parlamento, per cui. Un altro è il doppio pesismo che questa signora con grandissima disinvoltura usa per sé e per gli altri, perché nei casi dei Dupi, della Guidi, della Cancellieri, se vi ricordate, lei per molto meno, cioè, molto meno esposti di quanto sia disse lei. Devono lasciare. No, l'attacco in maniera, io al loro posto mi sarei già dimessa da tempo. Aspettiamo che un minimo di coerenza l'esercito, ma vedo che questo non è quanto. Beh, oddio, quello... però oggi guarda che Repubblica cita questa cosa, dice che l'atteggiamento all'interno del governo è questo: se Ghizzoni parlasse, Ghizzoni ex AD di Unicredit, però forse è tenuto a una segretezza, perché da quando se parlasse a quel punto sarebbe indifendibile, cioè se confermasse, ecco, se confermasse tutto a quel punto basta. Perdonami Alessandro, ma Ghizzoni ha già parlato. Il momento non in parlando cui non smentisce è una conferma. Ma sai, si parla anche dei patti, dei patti quando uno lascia, un altro dirigente lascia la banca, firma dei patti per cui non può parlare di cose della banca, no? C'è anche questo. Sì, sì, è vero, ma in questo caso qui non penso che con un clamore del genere il fatto che Ghizzoni si limiti a un no comment confermi sostanzialmente il racconto di De Bortoli, cioè, ci sono pochi dubbi che De Bortoli abbia raccontato una cosa vera, ma poi possiamo dire che non sarà neanche bisogno aspettare De Bortoli per dire che la Boschi si era impicciata di Banca Etruria pur dicendo che non ce n'era stata. Leggete le dichiarazioni di Tabacci, per esempio, che dice: io ero membro della commissione e in quella commissione tutte le volte che si parlava di banca era presente anche delle riforme. Vabbè, ma io vorrei capire, ma in Parlamento che succede, Bianconi? Cioè, proprio spieghiamo i vari movimenti, le mozioni, le censure, cioè che cosa succederà praticamente in Parlamento? Cioè, guardi, qui c'è la lotta a fare la bella figura ai giornalisti. Questo vuol presentare la sfiducia individuale, quell'altro la mozione di appunto. E invece la questione diventa sostanziale, non si può andare avanti a forza di spot neanche da parte delle opposizioni, addirittura il Forza Italia ha chiesto che se ne occupi, che se venga riferito al Parlamento. La questione è di una chiarezza solare. Se Gentiloni ritiene di fare una cosa secondo anche uno stile di correttezza che gli è anche proprio, Gentiloni non è uno sbagliato, non è uno come Renzi. Questa non gli si può più stare intorno. Ho capito, ma non lo decidi tu, ma non lo decidi tu. Certo che non lo decido io, lo decide lui. Dico, se la vuol fare questa operazione verità, la fa. Cioè questa è una che prende tutti i provvedimenti di governo e se li guarda, anzi ha mandato una circolare incazzata perché non glieli davano. Quindi questa è una che vuol comandare ed è una che ha mentito al Parlamento. Ma pentito davanti al viso perché ero a 4 metri quando lei ha detto a me mi stanno sulle scatole la gente che per ambizione e per potere perde la faccia in questo modo. Questa non può rappresentare manco se stessa. Questa è la cosa grave. Massimo De Manzoni, questa è la cosa grave. Le ha mentito in faccia a Bianconi a 3 metri. No, a Bianconi come parlamentare. Sì, come davanti a me altre 600 persone che la stavano a sentire. Questa in mani di Stint Italia ci piglia per il culo come se fosse niente. Eccola. Ha detto alla cancellieri di andare a casa. Ha detto a Lupi di andare a casa. Andavano tutti a casa meno che lei. Eccola. Vabbè, ma Massimo, come finirà questa cosa? Perché allora l'altro rumor è questo. E anche voi l'avete scritto un paio di giorni fa. Renzi vuole andare a votare a ottobre. Questo ormai è tutto chiaro. Pare che c'è un retroscena. Dorina Bianchi, intercettata da due colleghi di partito sull'aereo, ha detto: ma dai, è chiaro, ormai a luglio si sciolgono le camere, ci tocca la campagna elettorale sotto l'ombrellone, si vota a ottobre. Questo Massimo De Manzoni, andrà a finire così alla fine? Guarda, sì, nel senso, la voglia di Renzi è esattamente quella. Lui spera in qualche incidente, l'ultimo, quello dei vaccini, in cui si è già espresso, c'è troppo casino nel governo, qui ognuno va per i fatti suoi, come a prefigurare, qui c'è bisogno che io torni in campo, lo fece già con Letta. Però devo anche dire che il caso Boschi non può essere per lui il pretesto per presentare il governo, perché poi se lo tira dietro, nel senso che il caso Boschi è il caso Renzi, lui l'ha sempre protetta in tutto per tutto. I decreti sulle banche li hanno fatti insieme. Sì. Quello che faceva la Boschi era a conoscenza. Ieri qui Sallusti ci ha detto: mi sa che è lei che tiene i pantaloni rispetto a Renzi. Con questa immagine un po', anche un po'. Sallusti. C'è anche chi dice così, ma al di là dei rapporti personali, io parlo dei rapporti politici. In questa vicenda ci sono dentro tutti e due con tutte le scarpe, per cui far saltare il governo sulla vicenda Boschi per Renzi è complicato. Sì, ma adesso c'è la vicenda vaccini, cioè sembra che ogni giorno porti la sua pena, nel senso, nel rapporto tra Renzi e il governo. Infatti ripartiamo da qui dopo il traffico. Vorrei capire da Bianconi il pronostico, quando si va a votare, fondamentale. Guarda qua, invece la legge elettorale, giustamente anche Libero la definisce una pantomima, la legge elettorale. Tra poco. Milan, manda il traffico. Devo entrare in tangenziale. Eh? 24 mattino. Milan, basta parlare di politica, non ne posso più. Ragazzi, era ora, è un principio di giustizia. Eh no, amore mio, te ne vai, mi metti le corna e in più devo anche pagarti. Era ora. Ma io perché vi sto a ascoltare? No, cambio. Ma se fosse vero dovrebbe dimettersi la Boschi? Ma temo che non sia vero. Cioè io tendo più a stare con la Boschi, non solo perché perdono comunque la bellezza. E mi sembra eccessivo che un ministro, essendo ministro, vada a chiedere una cosa come quella. Io comunque la perdono a priori, anche se l'avesse fatto. Vabbè, Sgarbi ama la bellezza e quindi la perdona a priori. Siamo con Maurizio Bianconi, direzione Italia, e con Massimo De Manzoni, con direttore della Verità. Allora, c'è questa cosa dei vaccini adesso, la polemica. Ogni giorno, Massimo, la polemica quotidiana. Cioè, questo mi dà l'idea di un logorio che Renzi in qualche modo porta avanti per pungolarli da una parte. A proposito, com'è andato il vertice giovedì Gnocchi? Che ieri c'era il primo vertice col governo e Renzi. È stato fatto? Hanno fatto finta. Hanno fatto finta, fanno un casino in casa. Esatto, doveva esserci la cabina di regia. Sì, no, si sono visti, si sono fatti vedere. Ma so. Poi quando c'è il partito, sono tutte cose di vecchia politica che non funzionano. Volevo semplicemente dirgli che la lettura che Renzi voglia andare alle elezioni a me stupisce un po', nel senso che Renzi l'altra volta ci ha detto che è l'ultimo che vuole andare a votare. È l'ultimo che vuole andare a votare, ma se permette glielo cerco di dare le mie ragioni. Intanto l'ha detto, perché quando fece il confronto disse che per votare c'era tempo fino a maggio 2018. Il che, se lo dice, non lo dice per noi. Quando dice le cose le dice sempre per la tasca sua, perché è fatto in questo modo. Sì, uno. Secondo, lui non ha il problema di mandare via Gentiloni e presentarsi alle elezioni con l'ennesimo governo di centro-sinistra andato a gambe ritte, perché lui va a elezioni con due fallimenti, il suo e quello di Gentiloni. Lui può avere l'idea di mandare a casa Gentiloni, ma di farsi rifare Presidente del Consiglio e andare alle elezioni con il governo nella convinzione non solo di avere qualche successo, ma essendo già d'accordo con Berlusconi che comunque sia con una legge di tipo proporzionale il governo prossimo sarà un governo Renzi Berlusconi contro gli estremismi e contro Grillo, questo è chiaro, che lui vuol fare il primo ministro di un governo e andare alle elezioni da primo ministro con una legge proporzionale che gli consenta di governare altri 20 capito De Manzoni, questo è l'inciucione, è la tesi. Ma una cosa non esclude l'altra, lo può fare anche subito, nel senso che c'è una legge proporzionale sul tappeto, se si votasse con questa legge corretta magari per decreto come si è ventilato nei giorni scorsi, e lui nei fatti si sta comportando da primo ministro di nuovo, arriva Obama, chiama Macron, ti passo Obama. Si vede che c'è proprio gli va stretto il ruolo che ha adesso, che è quello di segretario del partito di maggioranza. Per cui la tentazione ce l'ha. Dopodiché, ripeto, secondo me sta rischiando anche parecchio, perché tante di quelle delle cose che stanno esplodendo sono anche responsabilità sua, e questo va ricordato. Ma lui ha un terrore, ed è quello che se il governo arriva al compimento naturale della legislatura a settembre, a novembre, entro la fine dell'anno, dovrà varare una di quelle manovre pesantissime, e quello, scoprirà finalmente quello che noi andiamo ripetendo da tempo, che Renzi, quando è stato al governo, ha scassato i conti dello Stato. Solo che finché i nodi non vengono al pettine, non ce ne Ma infatti pare che sia proprio ottobre la volontà di andare, proprio per andare prima della manovra. Certo, ecco, Lui non può permettersi la manovra, perché la manovra lo metterebbe definitivamente a nudo. E questa volta, colpendo non la bellezza della Boschi, come dice Sgarbi, ma il portafoglio degli italiani. Io vorrei è stato messo a nudo Bianconi da tre divorzi? Io? No, io due divorzi. Due divorzi, sì. No, non volevo portarmi avanti, scusa. Carità. No, volevo sei stato messo a nudo ma sul portafogli, volevo dire. Insomma, mi sono dovuto rifare da capo tre volte io. Vabbè, adesso c'è la prova. Vabbè, comunque, basta non avere confusione. Contenta, non sa. No, però aspetta, perché devo chiudere. Io voglio fare lo psicologo di D'Alema oggi. Voglio tornare sullo lo psicologo di D'Alema. D'Alema, dobbiamo capire questa sindrome. D'Alema, senti qua. Antropologicamente, un calabrese e un arabo non si distinguono. Abbiamo prove di lei. Mentre a Oslo l'arabo lo vedi, diciamo, da noi non lo vedi. Questo è, non lo so, in Calabria cosa ne penseranno, ma voglio dire. Non ha detto una bugia. Quindi non ha la sindrome del bugiardo. Non ha la sindrome della lingua biforcuta. No, lui non è. Lui si autorovina, ma non è un bugiardo. Non è un bugiardo, pieno di senso. Secondo te, Massimo De Manzoni, noi stiamo cercando una sindrome. Lo psicologo di D'Alema, quale potrebbe essere la sindrome? Di D'Alema? La sindrome dell'arroganza, sicuramente. Io dissi dello sfasciacarrozzi. Ma noi siamo alla ricerca. Poi dopo faremo, dopo anni e anni di ricerca, la sindrome corretta. Insomma, come dei bravi psicologi, studiamo a fondo il caso prima di dare una definitiva idea. Allora ringrazio Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, che tra poco leggeremo con gli altri giornali in rassegna stampa, e Maurizio Bianconi, direzione Italia. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Forza signori, alle 7:19 minuti, dai che è venerdì. Allora, siamo alla rassegna stampa di 24 mattino, la lettura dei quotidiani con voi. Forza, oggi abbiamo Paolo Corleone in regia. Andiamo. Mamma mia, per fortuna che è San Venerdì! Abbastanza felice questo nostro ascoltatore, evidentemente lui il sabato e la domenica non lavora. Allora, siamo a venerdì 12 maggio e intanto vediamo i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore, manovra, arrivano la nuova web tax e rimborsi IVA rapidi, è l'apertura e il titolo di prima pagina. Poi il caso vaccini, lo scontro nel governo, scuola, vaccini obbligatori, la ministra della salute porterà un decreto ai colleghi, questo è il titolo del Corriere della Sera, che ha un'intervista al ministro Lorenzin. Senza vaccino niente scuola, ma il governo stoppa Lorenzin, è il titolo di Repubblica. Mentre il Messaggero, vaccini un caso, l'obbligo a scuola. per avvenire vaccini obbligatori, ma il governo frena. Anche il giornale Vaccini a scuola, governo in quarantena. E il giorno Vaccini, duello sulla scuola. Vedremo tra pochissimo. Poi il caso Etruria, ancora in prima pagina per La Stampa, si apre un nuovo fronte. Etruria, un altro caso nel governo. Non solo polemiche sulla Boschi, un esponente dell'esecutivo chiese nel 2015 alla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di intervenire. Dunque c'è un nuovo fronte. Per il Fatto Quotidiano, Mattarella vuole notizie sulla Boschi. De Bortoli è una storia di massoneria. Questo è il titolo di prima pagina. Per La Verità, Boschi, 5 motivi per dimettersi. Come vedete, la pressione politica è molto alta. L'Unità, invece, i vaccini prima di tutto, torna alla questione vaccini. Il Manifesto si concentra sulla legge elettorale. Pastrocchiellum, Renzi lancia per finta la legge elettorale sul modello tedesco. Ma i vaccini, appunto, rischiano, non dico di mandare gambe all'aria, ma creano tensione a livello del governo, perché, come lo definisce Alessandro Trocino in apertura del Corriere della Sera a pagina 5, è un pasticcio. Un pasticcio che fa infuriare Renzi e i renziani, che rischia di togliere forza alla campagna per i vaccini obbligatori. L'innesco della polemica, un'intervista a Night Tabloid del ministro Beatrice Lorenzin, che annuncia: ho pronto un testo di legge che prevede l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola dell'obbligo. L'ho mandato al Presidente del Consiglio e lo porteremo domani in Consiglio dei Ministri. Solo che Palazzo Chigi smentisce, non ci sarà alcun testo, e dietro tutto ciò c'è lo scontro col ministro all'istruzione Valeria Fedeli, che dice: l'obbligo dei vaccini non deve andare contro il diritto all'istruzione, due diritti costituzionali, quello alla salute e quello all'istruzione, entrambi da garantire. Dunque salta tutto, ma la polemica è servita sui giornali. Beatrice Lorenzin, ministro della salute, intervistata dal Corriere della Sera da Margherita De Bacc, a pagina 5, ribadisce: ne era al corrente da diversi giorni Gentiloni. Ha ricevuto tutti i miei atti, anche con la collega Fedeli ci sono stati i contatti. Non è vero che non c'è comunicazione. Sulla questione vaccini c'è un problema di sanità pubblica e va affrontato con forza. Sui vaccini obbligatori non sarà uno schema fisso, dice la Lorenzin. Oltre ai 4 già previsti dal calendario per la pediatria, li decideremo di volta in volta in base a dati epidemiologici. Ho inviato la bozza della legge a Palazzo Chigi per rispondere a un'emergenza. Varrà per le scuole elementari. Iniziative negli asili esulano dalla nostra competenza. L'obiettivo è dare sicurezza e proteggere i cittadini dal rischio di contagio da malattie infettive che nell'immaginario collettivo sono sparite e lo erano davvero grazie alla profilassi. Guardiamo quel che sta succedendo per il morbillo. Dunque Beatrice Lorenzin va dritta sia sul tema la necessità del provvedimento e poi rintuzza le polemiche dal punto di vista politico, ma le fa eco in qualche modo, anche se è un retroscena, il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Corrado Zunino ne scrive su Repubblica a pagina 7, è in viaggio a Campobasso, sta visitando l'istituto comprensivo Montini in Molise, e il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli ragiona con i suoi. Questa frase viene attribuita a lei: con questa storia delle vaccinazioni obbligatorie a scuola non vorrei innescare un nuovo incidente di percorso, non ci serve un altro Fertility Day. Ricordate le polemiche che travolsero proprio il ministro Lorenzin sul Fertility Day. E poi gli opuscoli di Stato razzisti, le critiche dell'allora premier Renzi che disse tutto sbagliato, inguardabile. Ecco, Valeria Fedeli vuole evitare tutto questo. Era convinta dal pomeriggio che il decreto non sarebbe andato in Consiglio dei Ministri subito. Oggi il resto del governo sembrava freddo. Non ho detto che il provvedimento era all'ordine del giorno, ma è mia intenzione aprire una discussione con i colleghi del governo. Ha registrato così il passo indietro della Lorenzin, ma lo scontro c'è e Gentiloni pare, secondo un altro retroscena sulla Stampa a pagina 9, pare che sia stato lui, in maniera un po' nervosa, in maniera un po' stizzita, a dire stop. La telefonata è partita dagli uffici di Palazzo Chigi, ma perché state dicendo che domani c'è il testo sui vaccini in consiglio che non è all'ordine del giorno? Destinatari della chiamata gli uffici del Ministero della Salute. E il tono, quello del Premier Gentiloni, era irritato, infastidito da questa fuga in avanti e quindi ha chiesto uno stop. Così racconta La Stampa a pagina 9. Anche Renzi arrabbiato, il governo si spacca, le famiglie protestano, il titolo del giornale. Insomma, un pasticcione, eh? Un pasticcione. Oh, invece, per tornare alla vicenda del divorzio, della sentenza che riguarda l'ex ministro Grilli e l'ex moglie, Lisa Lowenstein, sentenza della Corte di Cassazione che pare rivoluzionare tutta la questione degli assegni tra ex coniugi, parla Lisa Lowenstein. È stata raggiunta da Repubblica, da Franco Vanni, parla in italiano perfetto, è negli Stati Uniti dove è tornata, piange, non si dà pace. L'intervista è a pagina 19. Dice: non ho soldi, mio padre architetto è morto senza lasciare eredità, sopravvivo, faccio qualche consulenza ad artisti per far fruttare il loro lavoro. Sono la classica ex moglie italiana che col divorzio ha perso ogni cosa, affetto, soldi, futuro, radici. Mi spiace per le donne che soffriranno per colpa di questa sentenza. A chi ha scelto di essere moglie e madre, dispiace per loro, guardate che è un lavoro, non riconoscerlo è assurdo. Io ci sono cascata dopo questa scellerata sentenza, temo toccherà a molte. Ho letto che lui mi avrebbe dato, lui cioè l'ex ministro Grilli, 2 milioni, invece ho avuto 500.000 euro, poi più niente. E quanto guadagnano oggi i miei compagni della London Business School laureati con voti inferiori ai miei? 500.000 euro in un anno. Mentre loro lavoravano, io facevo la signora Grilli. E qui, insomma, vabbè, a parte che questa cifra, 500.000 euro, come dire, dipende sempre dal tenore di vita, signori, e basta con le invidie sociali. Guardate che vi vengo a prendere per la collottola, che vi vedo, dice, porca. Caccia, 500.000 euro, io non li vedo neanche in mezza vita, in una vita intera. Sì, ma dipende dal tenore di vita. Lei dice, io facevo la signora Grilli, avevo gli obblighi, le cene con nobili, ambasciatori, ministri, serate scintillanti in cui si tessevano relazioni, si costruivano carriere, io sorridevo e soffrivo, mi sentivo a mio agio solo nelle cucine, vicina alle cameriere, donne umili che nell'ombra mandavano avanti la messa in scena. Insomma, è qui... si leva anche un po', evidentemente, qualche sassolone dai tacchi a spillo, dalle scarpe, perché l'immagine, insomma, di questa donna, non la conosco, costretta in un mondo dorato, in una gabbia dorata. E un uomo molto potente, ricorda ancora Lisa Lowenstein, mi disse che se volevo aiutare mio marito avrei dovuto stare a casa, occuparmi dell'acconciatura, rilassarmi, sacrificando ogni ambizione. Mentre la mia ambizione, io sono cresciuta a New Haven, nel Connecticut, e mio padre mi ha insegnato che essere donna non è un handicap. Credevo nel merito. Poi sono arrivato a Roma e ho capito tutto. Nel bel mondo romano contano le conoscenze a tutti i livelli. E poi a un certo punto sono arrivata al punto d'arrivo quando ospiti di un presidente del consiglio mi è stato fatto pesare il fatto di avere lo stesso abito di un'altra invitata. E qui crolla un po' tutto questo mondo dorato, la causa di... divorzio durata a lungo, vabbè, dispiaciuta per le donne che il verdetto farà soffrire. Così parla l'ex moglie del ministro Lisa Lowenstein. A proposito di lavoro, visto che ha detto è un lavoro essere mamme, ed è vero, fare la mamma, ebbene, il sito prontopro.it ha fatto un calcolo, e questo calcolo lo trovate sul Giorno, Giovanni Rossi, a pagina 10, il potere delle donne. Sapete, secondo questo calcolo, una mamma, cuoca, autista, consulente, un po' tutto, consulente per gli acquisti, chef a domicilio, autista. Cioè, se fosse paragonato a tutti questi lavori, se è stato fatto un calcolo di quanto dovrebbe ottenere come stipendio equo, mettendo un po' una media, visto che fa un po' di servizio d'autista, un po' di chef a domicilio cucinando, un po' di consulente per gli acquisti, mettendo un po' tutte queste professioni, è stato calcolato che meriterebbe in media 3.045 euro netti al mese. Una mamma, 3.045 euro netti al mese. Questo è stato fatto il calcolo, lo trovate sul Giorno. Va bene, dai, siamo all'articolo che mi fa della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. È l'ultima follia delle tasse, ne parla il Giornale, pagina 11, a Modena. Spunta la tassa sullo zerbino, la gabella del XXI secolo, una versione estesa un po' molesta della tassa sull'ombra delle insegne. Spunta nell'area di Modena, secondo una applicazione e interpretazione molto restrittiva delle esenzioni dall'imposta comunale, la tassa per molti commercianti che mettono lo zerbino con il nome del locale. È pubblicità. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il migliore ERP per il successo della tua impresa. Milan e Meazza, i due orini e i due neuroni dell'informazione. Giusto, giusto, meno male c'è qualcuno come Mauro Meazza che porta dei neuroni in questa trasmissione, altrimenti sarebbe proprio da neuro più che da neuroni. Allora, cari ascoltatori, il caso ancora Etruria, Maria Elena Boschi, Ferruccio De Bortoli, se volete metto i due protagonisti e l'elemento dello scontro. Dopo il libro in cui Ferruccio De Bortoli ha parlato di questo interessamento di Maria Elena Boschi ai tempi, qualche anno fa, per fare acquistare o comunque per far maturare un interesse in Unicredit nei confronti di Banca Etruria, la banca anche del padre vicepresidente. Che succede? Succede che ieri Ferruccio De Bortoli da Lilli Gruber ha ribadito, rincarando anche un po' la dose, il titolo finisce sul Fatto Quotidiano, De Bortoli attacca ancora, è una storia quella di Etruria di massoneria. È stato dimostrato che in qualche modo la massoneria c'entrava, perché sennò il padre del sottosegretario non sarebbe andato a incontrare Flavio Carboni. Era noto che Elio Faralli, a lungo presidente della banca, fosse un appartenente alla massoneria toscana. E quindi rincara la dose, poi peraltro dice però le dimissioni le considererei eccessive da parte di De Bortoli, dice non c'è nulla di male che un politico si occupi, si interessi del destino della banca e del territorio da cui proviene. Qui c'è un problema di coerenza rispetto a ciò che aveva dichiarato alla Camera quando Maria Elena Boschi aveva detto di non essersene mai occupata. Allora, la questione al di là delle dichiarazioni è che, vi segnalo, c'è un nuovo caso, se volete, Etruria, oggi lo solleva La Stampa, perché La Stampa con Gianluca Paolucci, senza fare il nome, parla però di un altro esponente del governo che all'epoca chiese aiuto a Popolare dell'Emilia Romagna. Inizio 2015, nelle settimane che precedettero il commissariamento di Banca Etruria, un influente membro del governo chiese a Banca Popolare Emilia Romagna di valutare un intervento in favore della banca aretina. Scrive così La Stampa, pagina 2, sto leggendo l'articolo di Gianluca Paolucci. Siamo nei primi giorni del 2015, quando un alto esponente del governo Renzi contatta i vertici di BPR e chiede la disponibilità della Popolare modenese a intervenire in favore di Banca Etruria. Quello stesso giorno e il successivo, l'episodio viene riportato da alcuni esponenti aziendali di Etruria, ai quali i vertici della Banca Popolare Emilia-Romagna erano legati da una lunga consuetudine in virtù anche della comune appartenenza alla galassia delle banche popolari. D'altra parte, proprio qua, BPR era stata una delle candidate a prendersi Etruria, della quale conosceva benissimo sia la potenzialità che i problemi, spiega una delle fonti interpellate. L'allora presidente di BPR, Ettore Caselli, contattato, nega di aver ricevuto pressioni di alcun tipo. guardammo il dossier Etruria di Chiara come ne guardammo altri e decidemmo di non fare niente. Certo, l'episodio è un nuovo episodio che si inserisce nella vicenda Banca Etruria. E oggi La Stampa, pagina 2 e 3, ricostruisce questo nuovo fronte. Tra l'altro, in un retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica, a pagina 9, si racconta di che cosa? Beh, si racconta del fatto che all'interno del governo c'è una difesa nei confronti di Maria Elena Boschi, ma con un particolare: se parla Ghizzoni è finita. Questo è il virgolettato. Renzi dice ora basta, va difesa la Boschi, ma la linea è questa: se dovesse parlare Ghizzoni, allora amministratore delegato di Unicredit, che al momento non ha detto nulla, se dovesse rompere gli indugi e confermare la versione di Ferruccio De Bortoli, sarebbe quasi impossibile difendere la regista della riforma costituzionale fallita, e un passo indietro diventerebbe forse inevitabile da parte di Maria Elena Boschi. Questo per quel che riguarda la polemica del giorno. Mentre guardate, signori, faccio uno sciopero. Io di legge elettorale non voglio neanche più sentirne parlare. Quando l'avrete fatta, se mai la farete, cari parlamentari, fateci una chiamata. Fino a quel momento, se io fossi direttore di un giornale, dedicherei un francobollo minuscolo di 3 righe così. Anche oggi in Parlamento si è parlato di legge elettorale. Punto. Senza firma. Basta. Il titolo del manifesto è Il Pastrocchiellum. È vero, e lo so che la legge elettorale è importante, forse la legge più importante, perché dalla legge elettorale si stabilisce se c'è una governabilità o meno. Ma siccome è una presa per i fondelli da mesi, ricordiamo sempre, perché in politica si dimentica tutto, che Napolitano fu rieletto Presidente della Repubblica proprio anche perché non sono stati in grado in anni di fare una legge elettorale, e glielo disse al Parlamento tutto riunito: non siete neanche stati in grado di fare la legge elettorale, per questo sono qui. E tutti bravo, mentre gli diceva cretini, gli stava dicendo, e tutti ad applaudirlo. Ecco, e continua questa cosa della legge elettorale. 3 pagine sui giornali, alcuni 3 pagine. Passo oltre. Voglio invece raccontare che cosa? Beh, che secondo... che Repubblica, eccola qua, Repubblica ha un'apertura diversa sui migranti, è una storia. È la storia del dottor Mohannad Jammo, medico siriano, che è riuscito, ma passando attraverso un naufragio in cui ha perso 2 figli, è riuscito ad arrivare in Europa scappando dalla Siria, ora è in Germania e Fabrizio Gatti l'ha raggiunto. Chi è Mohammed Jammo? È colui che si sente in quell'audio di un naufragio. Un naufragio, un audio pubblicato dall'Espresso Repubblica, un audio che ha fatto il giro del mondo e che dimostra come un naufragio di un barcone sia stato in qualche modo... non evitato, mettiamo così, dalla Guardia Costiera italiana, che impassibile dice vai vai, chiama Malta, loro sono lì, sono vicini. Non era vero e la barca affondò con diversi morti, 268, tra cui 60 bambini e anche 2 dei 3 figli di Mohannad Jammo. Ora lui è in Germania e Fabrizio Gatti lo intervista. La strage della vergogna, che shock risentire quelle telefonate, così han fatto morire i nostri bimbi, racconta. Continuava a dire in quella telefonata che sono un medico, sperando di ottenere credibilità, perché sentivo che il destinatario delle mie chiamate non prestava attenzione a quello che stavo dicendo. Ora lui parla dalla Germania, dove fa il chirurgo, e per fuggire dalla guerra dice: ho venduto tutto. Tutto ciò che avevo, tutto quello che avevo, mi sono imbarcato con la famiglia e qui in Germania, dice, ora ci troviamo bene. Ma in 2 pagine molto intense che vi voglio segnalare, pagina 2 e 3, racconta il viaggio della speranza, la morte, quella telefonata disperata alla quale non sono seguiti i soccorsi e dice Ora mi sento bene in Germania, certo, però ha perso due dei tre figli. Allora, Mauro Meazza, è il momento, tu vuoi occuparti di legge elettorale, vuoi dirci qualcosa? Buongiorno, buongiorno caro Alessandro, quasi quasi preferivo quando mi facevi precedere da qualche inchiesta. Sì. Se vuoi c'è Woodcock, la questione Woodcock. No, vabbè tienila per dopo. Adesso ti vorrei segnalare alcune cose sul Sole 24 Ore, naturalmente non prima di averti fatto i miei più cari auguri per domenica. La vostra trasferta in quel di Bergamo, che sicuramente sarà foriera di grandi soddisfazioni. Per l'Atalanta, sicuramente. Non sappiamo per chi. Allora, non so se hai colto questa vicenda di Uber, perché l'avvocato generale della UE ha detto che, insomma, Uber, secondo lui, poi decideranno i giudici, deciderà la Corte, secondo lui Uber dovrebbe dotarsi di licenze, così come tutti quelli che fanno il trasporto pubblico. Questo a proposito di Uber Pop, ma come leggerai su Norme e Tributi oggi su Sole 24 Ore, questo potrebbe avere effetti anche per le norme che si dovranno fare in materia. A proposito di norme, sai che è stato approvato finalmente lo statuto del lavoro autonomo. Ci abbiamo messo un 3 anni circa, però ce l'abbiamo. Fatto bene, allora, immagino. Adesso è tutto pronto? No, adesso ci sono i tempi per l'entrata in vigore. Come fai a conoscerli? Leggo il Sole 24 Ore? Ma bravissimo, guarda, a volte sei molto perspicace, a volte. Su Norme e Tributi, la prima pagina ti direi da staccare e conservare, o da ritagliare anche se vuoi, se vuoi salvarla sul computer, se leggi da un tablet, bene. Tutti i tempi di entrata in vigore delle varie novità, alcune subito e altre più tardi, ma è tutto spiegato appunto su Norme e Tributi. Già hai segnalato il titolo principale, la manovrina, ci si sta lavorando, ci sono migliaia di emendamenti, vediamo se arriverà una web tax, sai che è una delle discussioni in materia, comunque sicuramente si cercherà di accelerare sui rimborsi IVA, questa potrebbe essere anche una buona notizia. Naturalmente ci sono ancora degli approfondimenti da fare per la sentenza della Cassazione sul divorzio, perché già ricordavi che sono cambiati così i criteri, allora ancora su Norme e Tributi troverai tutta una serie di criteri che sono stati utilizzati fin qui dai giudici per vedere, per giudicare l'autosufficienza. Oggi non ti scordare che c'è Moda 24, le pagine di Moda 24, e domani con il Sole 24 Ore c'è, vediamo se sei preparato, l'abbiamo provata questa cosa, non lo sai, va bene. C'è Plus, il settimanale del risparmio, tra l'altro. Lo stavo dicendo, ma come di fronte a un'interrogazione mi sono bloccato. Lo so, a casa lo sapevi. A casa lo sapevo, ho studiato, poi, giuro. E poi l'emozione, vabbè. Sì. Allora a questo punto tanti cari auguri, buona domenica a tutti gli ascoltatori e soprattutto, come sempre, traffico! Alessandro Mela, e leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. Vabbè. Capito che non potete cambiare canale? Siete avvertiti. Allora, dicevamo, c'è l'inchiesta Consip su tutti i giornali. Ricordate il carabiniere del Noi Capitano Giampaolo Scafarto, accusato e indagato di falso materiale ideologico per l'inchiesta Consip, indagava a Napoli Woodcock, accusato di avere, come dire, fatto degli errori all'interno di una informativa, per esempio dicendo che una delle persone ascoltate era il papà di Renzi, invece era l'imprenditore Romeo, invece era Italo Bocchino, cioè un consulente, poi aveva parlato di pedinamento nei suoi confronti da parte dei servizi segreti. Ieri è stato interrogato 4 ore, mi scuso, i falsi dovuti alla fretta, questo è il titolo di pagina 11 di Repubblica, e in più il capitano coinvolge il PM Woodcock, racconta Maria Elena Vincenzi, Fu il dottor Woodcock a suggerirmi di fare un capitolo autonomo sul coinvolgimento dei servizi segreti, ma solo a questo si limitò l'intervento del magistrato a indicare come organizzare il lavoro. E poi sulle intercettazioni dice: i protagonisti spesso bisbigliavano, l'ascolto era complesso, ho elaborato un protocollo in tre fasi che prevedeva un ascolto su più livelli. Alla fine si è scusato per gli errori dicendo: nessun dolo, semmai la fretta di consegnare il tutto. E va bene, la fretta. Vi voglio sottolineare e voglio raccontarvi una bella storia, no? Visto che ce ne sono così poche sui giornali, questa è una bella storia. La trovate un po' ovunque, La Stampa, Il Giornale, Il Corriere, Repubblica, tutti dedicano una pagina alla favola, possiamo usare questo termine, di Nives Meroy e Romano Bennett, coppia nella vita, alpinisti, ma anche coppia nelle ascensioni sulle cime più impegnative del mondo. Nives e Romano, coppia record, hanno conquistato per primi in coppia tutti gli 8.000. Franco Brevini lo racconta sul Corriere della Sera: hanno conquistato la 14ª vetta, l'Annapurna. E quindi questa è un'impresa che hanno sempre fatto in coppia, un'impresa ancora più bella, più eroica, se volete. Perché? Perché 2 anni fa, tra l'altro, lui, Romano, ha scoperto di avere un tumore, la plasia midollare, che ha richiesto 2 trapianti di midollo osseo. Per 2 anni la montagna ha così ceduto il passo alla clinica ematologica del Policlinico Universitario di Udine. E Nives Meroy si è fermata per 2 anni, stando a fianco a lui, e poi sono ripartiti. Ha scritto anche un libro, Nives Meroy, dal titolo Non ti farò aspettare, per questa pausa nella vita di Romano Bennett. E ora sono ripartiti e di nuovo insieme hanno conquistato anche l'Annapurna. Nives e Romano, coppia record, i primi in cima a tutti gli 8.000, è il titolo del Corriere, ma anche La Stampa dedica una pagina davvero a questa bella vicenda. Un amore da 8.000 metri, Nives e Romano conquistano l'Annapurna, i primi a scalare in coppia le 14 vette più alte. Anche se, racconta La Stampa, la vittoria più bella resta quella contro la malattia di lui. Beh, davvero una bella storia che trovate un po' su tutti i giornali. Un po' meno bella quella di questo preside. SOS Scuola, titola Il Giorno. Preside che ha patteggiato 4 mesi a Bergamo all'aeronautico Locatelli. Il preside si chiama Giuseppe Di Gimignani. Se il bullo è il preside, ha patteggiato 4 mesi per avere, dunque, avere abusato dei mezzi di correzione e disciplina nei confronti di 3 studenti. Aveva versato il contenuto di una lattina di Coca-Cola e schiuma da barba sulla testa di 2 ragazzi. E poi nei confronti di un altro ragazzo che aveva insultato un compagno, l'ha mandato in giro con un cartello con frasi scioccanti di scherno. Questo è il preside, ha patteggiato. Va bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo qua, una pagina di Libero dedicata al dramma di Adriana Volpe, che ha litigato con Magalli e che ora denuncia: la RAI non mi ha ancora rinnovato il contratto. Ma chi se ne frega!